migliore si ritrova a pari piedi in testa. Che c'è d'ancora e non c'è nessuno che non la calpesta. La verità è disonesta, la liquidità molesta. Deve sporcarsi, abbassarsi a pari con gente di merda. Questa nazione mette manette, innocenti persone, mazzette più strette alle mani, prurito e irritazione, figure costrette al ricatto, pagano l'incentivo. Pizza un padrone che non ha un viso e non si sa se è vivo. La ragione abbandona lo sguardo riflesso, lo specchio del bagno sopra il lavandino, convinzione che gioca d'azzardo è l'omicidio il suo destino. Prima o poi la sconteranno, loro la pagheranno e lei, lei sarà l'unica cosa che mai avranno. Scruta fisso il riflesso dei suoi occhi nello specchio, voci di demoni sussurrano dentro l'orecchio. Bavagli in bocca, mani e piedi, lei è legata a letto. Questo è il rapporto perfetto, made in Italy. Al verde per il precariato ed uno stato assente, in bianco immacolato, luce sulla mataglia. È rosso sangue su ferite di pittine aperte, cruda vendetta il movente. Metti Italy. La parte più difficile per ragionare, tagli in faccia in pancia, sa che non c'è da aspettare. In questo nulla da difendere, avranno sangue a fiumi in cui cercare tracce. Non ci sarà pace ma solo corpi da stelle. L'odio disegna sulla pelle i nervi del suo collo. Qualche politico senza midollo morto sarà un verme mollo. Lui avrà quel corpo sotto le sue mani fuori controllo, e presto il rimorso sarà nullo. Lei è come una fuga unica per chi la cerca, deve tenerla stretta, è potere per vendetta. Questa nazione comunica terrore e violenza, sesso e corruzione avranno un nome e data di scadenza. Scruta fisso il riflesso dei suoi occhi nello specchio, voci di demoni sussurrano dentro l'orecchio. Bavagli in bocca, mani e piedi, lei è legata a letto. Questo è il rapporto perfetto, made in Italy. Al verde per il precariato ed uno stato assente, in bianco immacolato, luce sulla mataglia, è rosso sangue su ferite di pittine aperte, cruda vendetta il movente. Metti in Italy, cruda vendetta il movente. Metti in Italy, cruda vendetta il movente. Metti in Italy, cruda vendetta il movente. Metti in Italy, cruda vendetta il movente. Metti in Italy.